Eccoci qua, carissima Flavia. Allora, 15 settembre 2010, una bella data, la Chiesa ricorda Maria Addolorata, anche detta la Desolata. In questo giorno io avrei voluto, penso anche altri, Marilena, Ada, Diana, Nicla, essere con te lì a Bergamo. C'eravamo sicuramente spiritualmente, tutti, e non potendo intervenire fisicamente, ho deciso di andare alle tombe di Don Ruggero Rugoletto, il mio compagno di studi teologici che è stato ucciso in Brasile un anno fa, sepolto nel cimitero di Rigo Novo, in provincia di Venezia, e poi mi sono velocemente trasferito nel cimitero di Saccolongo, in provincia di Padova, dove provvisoriamente è sepolto padre Daniele Ekic, mio primo padre spirituale. Forse superfluo dunque dire che davanti a queste due tombe mi sembrava di fare il piccolo pellegrinaggio alle tombe dei santi. Ho ricordato te, la tua intenzione di consacrazione odierna, la tua famiglia, il piccolo monastero. Che dire, quello che ha detto Ada, il piccolo monastero online oggi cresce. Cresce, io sento, per l'intercessione presso la Madonna di Don Ruggero, di padre Daniele Ekic, che la Madonna ti accompagni, ci accompagni e ci benedica tutti. E nella preghiera del Vespro e del Santo Rosario di oggi la ringrazieremo in maniera particolare per l'accompagnamento che ha fatto a te durante quest'anno di preparazione alla vita del piccolo monastero. Adesso tu sai che, come hai tutti i doveri, hai anche tutti i diritti di un membro interno del piccolo monastero, e ringraziamo Dio per averci dato in te il segnale che la giovinezza non manca a questa piccola realtà che esiste nella Chiesa, nella vita reale e in internet. Ciao Flavia.